un jour, j'étais à la fac. Il y avait tous des sales gueules un peu comme toi. Mister Gasperino è il nostro... è il professore. Mister Campo è il nostro... nessuno. E Mister Brentolo, il nostro KKK. E soprattutto è un'altra radio. Qui per voi, Mister Cogot. Erdaglie. Ladies and gentlemen, it's the Pussy Show. We have all the pussies you want, but first, let's play funk. There are so many pussies in the party. fat, rastas, apples, juicy, made, louses, double, bad, small, drunk, mad, open, cold, blonde, ugly, large, smoky, dry, freaky, frigid, shy, sweet, wet, dark, deep, louses, bad, drunk, crumpled, cold, spicy, dead. Falam muito, alguns entendem. Aprendo, tropeço, remendo, emenda e conserto. Aprofundo o assunto, não nego, mas esse verso é pra chegar de você mais perto. Pô, irmão, é verdade, o coração prega peças, mas mostrar seriedade. Te testar, contar, se deixar, tem autoridade. Porque não tem como fugir do que te grita em silêncio. Pra que esquecer o que te faz estar aqui presente? Sente, sente. A rotina oprime, realidade ingrata que nos deprime. Esperam de nós o que dizer e o que pensar. Pra quem trabalhar, quem deve amar. E dizem que vão te fortalecer e ajudar. Só pra no final sua vida e habilidade poderem manipular. Choro escondido com teste e dói, mas não abandono o time no meu hino. No meu hino não tem caô. Sento tranquilo entre criança, tiozinho, doutor. Vaidade, tudo vaidade. Passo a bola antes que o ar acabe. Porque existem muitas misérias que aprendi a detectar. A pior é que se tem tudo que a matéria pode comprar. Sensibilidade pra viver e apreciar. E apreciar. Esquiva no jogo de dentro, sincroniza a ginga. Porque o maior patrimônio é a mente em estado harmônico. Na hora decisiva. Esquiva na hora decisiva. Miseráveis ricos que dominam o lugar. É bom lembrar, existe muito mais para além das colinas e do que você pode abraçar. Nartra Radio Roma è di nuovo in mezzo a voi, ed anche Mr. Cocotte con le sue selezioni mirabolanti, senza senso e senza filo. Per oggi però voglio portarvi in un mondo radicale per quanto riguarda le CC. Questo sito si chiama Dogmazic, è francese e lo trovate su www.dogmazic.net. Qui troverete molti artisti di qualunque paese. Ne abbiamo sentiti appena due. Non volevo interrompervi con le mie chiacchiere e vi ho lasciato due brani. Il primo pezzo era di Theo Seven, lui direttamente da Parigi, Francia, tratto dall'album le 70s con Me Mancare, il pezzo era Pussy Show. Il secondo brano, appena finito il pezzo di Teo 7, era di Andrea Dacal. Lei è brasiliana, Rio de Janeiro, con il pezzo Yogo de Dentro, dall'album Affirmativa. Tutte e due Dogmazic, tutte e due very groovy, tutte e due su Nartra Radio Roma. Ed ora avanti con il prossimo pezzo, che non vi dico il titolo, perché ve lo dovete ascoltare e poi dovete chiedermi chi è? Anche in altra radio Roma. E lui, appena passato qui su Narca Radio Roma, era Bottega Sonora, con il pezzo Erbario Nuovo, dall'album No Ordinary Day. Bottega Sonora, Narca Radio Roma l'ha scoperto già molto tempo fa su Cube.tv, ed appunto gli abbiamo chiesto di fornirci un podcast, di darci una mano per preparare dei podcast su Narca Radio Roma. Lui ci ha preparato il podcast numero 28, Bottega Sonora Nartra Radio Roma's Guest, e ci ha presentato un suo carissimo amico che ora non c'è più, Paolo Coppini, e tutto un repertorio di musiche fatte con lui sia in studio che in concerto. Se volete potete andarvi a riascoltare appunto il podcast numero 28, creato appunto da questo personaggio, Bottega Sonora. Lui è di Roma, strimpella più i beat che le corde, a volte canta, spesso compone per spettacoli teatrali e sforna musica elettronica per la fissa di manipolare il suono. Qui lo avete sentito manipolare un po' il suono con il pezzo Erbario Nuovo. Salutiamo Bottega Sonora, salutiamo Roma, da dove lui viene e da dove noi trasmettiamo, e andiamo avanti con un'altra narra. Des fois ils me font un peu peur. Je les regarde, je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Les gars ils se déchirent pour deux balles, pour que dalle. Deux balles dans la tête, c'est vite fait bien placé, ouais. Tu t'y attendais pas, hein? Ici rien à voir avec en bas. Ici pas de trahison, pas comme là-bas. Pas de frère qui nique son propre frère. Pas de business, ni show business. Pas de trafic, pas de génétique. Tout pour le fric, tout pour le fric. Tu comprends maintenant pourquoi j'hésite à matérialiser ma force psychique. Descendre sur la planète, mec. Je me demande s'il vaut mieux pas que je reste ici. Ils m'ont l'air tous bien flippés, bien tarés. Du genre rien à carrer. Je me demande si c'est vraiment une bonne idée ce que je suis en train de faire. Décider de naître. Y'a de quoi réfléchir. Quand tu vois ce qui se passe là en bas. Ancora Dogmatic, ancora Mr. Cocotte, ancora Nartra Radio Roma. Siamo sempre sulle frequenze di Nartra Radio Roma e questo è il podcast dedicato al sito di Dogmatic. Sicuramente non so se lo conoscete, ma lui chi? Dogmatic. È un sito di musica Creative Commons direttamente dalla Francia. Sti francesi stanno sempre avanti per quanto riguarda la musica. Comunque ci siamo ascoltati il pezzo Scendere di Sun and Whirl, loro direttamente da Torino, qui per Nartra Radio Roma. Questo è un pezzo che mi piace moltissimo, sia il gruppo che è Dasturbo, che vi farò ascoltare ancora una volta, sempre su questo podcast, che non so che numero sia, ma è soprattutto su Nartra Radio, Roma, Roma, solo musica, crea, Nartra Radio Roma, Nartra Radio Roma. Dall'etichetta Net Label Miga, uscita Miga 30, album Integral. Lui è Luca Moca. direttamente da Napoli, nato nel 1982, ora vive a Quarto, una piccola cittadina in periferia di Napoli, e dal 2003 ha fondato, e ancora adesso ci suona insieme, VOA Project, un duo elettronico che produce musica sperimentale di ogni tipo, di ogni genere e di ogni idea che possa uscire dalla mente. Lui è Luca Moca, questo che abbiamo appena ascoltato era il pezzo Touring Breaks. Direttamente qui a Nartra Radio Roma. Luca Moca, Napoli, Roma, Nartra Radio Roma. Eccoci tornati dopo due bei pezzetti. Il primo drum and bass, loro erano Flashball 13 con il pezzo The Third Stage, loro direttamente dalla Francia, da Bordeaux. Il secondo pezzo era un po' più jungle, loro erano gli Horus Eyes, sempre francesi da Saint-Céré, e il pezzo era Under the Jungle. Questa musica è una musica che piace molto a Mr. Cocot. E prossimamente, nei futuri podcast, farò un podcast totalmente drum and bass, jungle o breakbeat, sempre ed esclusivamente Creative Commons. Perciò stay tuned su un'altra Radio Roma, qui è Mr. Cocot alla console. Dai, dai, dai, alzate ste casse che te sto a mannà. Un altro po' de caste, aste, un'altra casta Roma, un'altra Radio Roma, Creative Commons, Creative Commons, un'altra Radio Roma. Oh. Nartra Radio Roma vi presenta i Number Six. Loro, una band di musica elettronica attiva a Roma. Perciò, Roma, Nartra Radio Roma, Number Six. La band è partorita dalla mente di Emanuele Napoletano. La band ha come obiettivo la creazione di musica elettronica utilizzando la composizione a distanza. I musicisti hanno suonato in diverse band romane e la musica dei Number Six rappresenta una perpetua ricerca del nulla. Questa traccia si chiamava Sardinia e faceva parte di un loro CD intitolato Secret Journey. Buon viaggio su Nartra Radio Roma. Thank you. E siamo tornati qui su un'altra Radio Roma con i Gasno Prod, direttamente da www.dogmazit.net. Loro sono francesi e questi due estratti sono stati scaricati su Dogmazic, direttamente sul loro album Pied de Dom del 2010. Loro appunto, come dicevo, sono di Clermont-Ferrand, Francia. Spero che il nostro francese sia un po' migliore dell'inglese, ma non penso proprio. E adesso vi andrò a dire i nomi delle due tracce, ma non prendeteci in giro. Faremo un mix francese, inglese, italiano. Prima traccia, En Mal de Ten. Seconda traccia, Par de Filet. Loro erano francesi, qui stiamo a Roma, e adesso continuiamo sempre sulle onde funky soul, un'altra radio, funky Roma, funky Roma, un'altra radio Roma, Mr. Cocos, Thank you. Ed eccoci tornati su Un'altra Radio Roma con Roberto Daglio. Lui scoperto poco tempo fa su Gemendo, lo abbiamo mandato anche in diretta, mi sembra la quarta diretta di Un'altra Radio Roma, e l'ho ritrovato qui su Dogmatic. Sempre sonorità piacevoli, soffici, jazzy, fusion, sonorità che a Mr. Cogot e a Un'altra Radio Roma piacciono. Perciò, se volete continuare ad ascoltare questo podcast, vi basta smettere di ascoltare la mia voce e continuare ad ascoltare i prossimi brani. Qui su Un'altra Radio Roma. Roma, Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Ancora dogmazic.net e ancora Un'altra Radio Roma. Ed ora vi ho fatto ascoltare un altro pezzo della Miga Net Label, l'uscita 25. Loro sono i VOA Project, tratto dall'album Struttura. Se volete informazioni su questa Net Label, basta cliccare su Google Miga e sarete direzionati in questo posto, dove potete ascoltare tanta buona musica elettronica. Una musica che ha influenze che arrivano dai Matmos, dai Mam, Brian Eno, Telephone of Tel Aviv, Antipop Consortium e più ne volete e più ne avrete, sia qui a Nartra Radio Roma che nel web, cercando sempre musica Creative Commons. Questo pezzo era intitolato Subway, loro erano i Project, e questa è Nartra Radio Roma, nuovo pezzo, nuovo brano, Nartra Radio Roma, Nartra Radio Roma. Zitti, raga, che inizio. Belli, non so di chi è, ci eravamo impallati. Adesso si comincia. Piccolo errore fatto qui sull'Artra Radio Roma. Ma insomma, ecco che ho messo, devo essere sincero. Comunque, la serata prosegue. Bottiglie se ne continuano ad aprire. Per il resto basta che ci divertiamo noi. Quando vuoi, guarda, il microfono è aperto qui per te. Artra Radio Roma. Buon pezzo di vista. Passati erano i Transistor italiani, new wave, post-punk, garage, alcune sonorità che ci sono molto familiari, che non so, a chi piace, piace, a chi non piace, non piace. Insomma, Transistor qui a Nartra Radio Roma, sempre da Dogmatic, in uscita il loro nuovo album che si chiama How to Irritate People. Noi di Nartra Radio Roma non vogliamo irritare nessuno, vogliamo solo farvi ascoltare musica Creative Commons, autoprodotta, che esula dai sanguisuga della CAE. Qui Nartra Radio Roma, qui Mr. Cogot. Nartra Radio Roma, Nartra Radio Roma, Roma. Appuntamento al prossimo podcast. Yeah! Sono Nando, che c'è, la musica? Yeah! Sollella, che c'è, la musica? Yeah! Max, che c'è, la musica? Non c'è musica. Se non è lì, se non è lì, se non è lì, se non è lì. Non c'è radio. Senza musica. Senza musica. Senza musica. Senza musica. Non c'è Roma. Se non c'è radio. Se non c'è. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Non c'è un'altra. Radio Roma. Radio Roma. Radio Roma. Un'altra Radio Roma, dove la musica è la padrona.